Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini Incrociati va alla scoperta di uno dei movimenti artistici più importanti, influenti e rivoluzionari del XX secolo, il surrealismo. Per farlo, dobbiamo azionare la nostra macchina del tempo e compiere un balzo all'indietro, fino al 1930. Siamo a Parigi. Nella capitale francese, che in questi anni è anche un po' la capitale d'Europa, siamo in pieni Roaring Twenties, quegli anni venti che in Francia vengono chiamati les années folles. La borghesia parigina vive il suo momento d'oro, tra perbenismo, ipocrisia, art déco, macchine sportive e balli sfrenati. So darling, save the last dance for me. In questo clima euforico, mentre lo spirito della storia tenta di gettarsi alle spalle i fantasmi della prima guerra, fioriscono quasi in tutta Europa le nuove avanguardie artistiche. Movimenti di rottura, provocatori, arrabbiati, innovativi. Come il futurismo di Marinetti in Italia. Nel centro di quel pompum spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria tirata. O il dadaismo di Duchamp. O come il surrealismo in Francia. È il 3 dicembre 1930. Siamo allo Studio 28 a Montmartre. Lo Studio 28 è una piccola sala che propone i primi film d'avanguardia o spettacoli sperimentali. La folla che sentite è quella che si è radunata per vedere L'Âge d'Or. È il secondo film surrealista di Luis Buñuel. È il secondo film surrealista scritto da Salvador Dalí. È il quinto giorno di programmazione. L'Âge d'Or non racconta una trama nel senso tradizionale del termine. Sulla traccia narrativa di un amor fou impossibile tra due giovani, procede per immagini e suggestioni che André Breton applica all'arte. Visioni pescate dall'inconscio, liberamente accostate l'una alle altre. Alcune di queste immagini sono violentemente anticlericali e in quegli anni, in cui si forgiano gli estremismi che esploderanno di lì a poco, le provocazioni non passano mai senza conseguenze. Allo Studio 28 irrompono gruppi di giovani fascisti armati, i Camelot de Roi. Assaltano il locale, tagliano le tele surrealiste esposte nell'atrio, distruggono le poltrone del cinema, imbrattano con l'inchiostro lo schermo. Vediamo se ci sono ancora dei cristiani in Francia. Gridano. In L'Âge d'Or mi ero proposto di offendere il pubblico, perché a quell'epoca mi sembrava necessario. E ci ero riuscito, evidentemente. Una parte degli spettatori aveva reagito male e gruppi di fascisti avevano assaltato la sala. Avete sentito la rievocazione di quei fatti da parte dello stesso Buñuel. Quella sera al cinema c'è anche lui. E altri surrealisti, Breton, Unique, Lothar. Non c'è Salvador Dalí. Il destino li ha fatti incontrare. L'incrocio delle loro storie ha dato fama e sostanza al surrealismo. I fatti di quella sera cambiano per sempre un rapporto che mostrava già qualche crepa. Scopriremo le loro storie tra poco, qui a Destini Incrociati. Et les douaniers du désespoir peuvent bien éventrer mes bagages, me palpérer, me questionner. J'ai jamais rien à déclarer. L'amour comme moi part en voyage. Un jour je le rencontrerai. À peine j'aurai vu son visage, tout de suite je le reconnaîtrai. La strada verso il surrealismo, verso il cinema, l'arte e naturalmente il destino per Luis Buñuel inizia nel 1917 a Madrid. Il futuro regista de Il fascino discreto della borghesia, che è nato nel 1900, arriva nella capitale spagnola appena 17enne, alla ricerca di una sistemazione. Si è iscritto per volere del padre alla facoltà di economia agraria. Gli serve un alloggio. Quando sceglie la residencia des Estudiantes sulla collina dei Pioppi, non sa che ha appena pescato dal mazzo la carta che cambierà per sempre la sua vita. Mentre Luis e i genitori visitano la residenza, l'Europa è ridotta a un cumulo di macerie. In furia la Prima Guerra Mondiale. Per il primo conflitto mondiale, il 1917 è l'anno decisivo. L'anno dell'ingresso in guerra degli Stati Uniti, l'anno della rivoluzione russa e con conseguente ritiro dal conflitto. L'anno delle grandi battaglie italo-austriache sull'Isonzo. Fuori dal conflitto, la Spagna vive un periodo di relativa stabilità con la restaurazione borbonica. Nella capitale, la residenza è il fulcro delle aspirazioni della nuova classe dirigente. Al lato delle attività pedagogiche e della soffocante chiesa spagnola, è il luogo dove gli studenti dormono, studiano e portano avanti le loro iniziative extrascolastiche. La residenza era diretta da Alberto Jiménez Fraud, uomo d'apertissima mente, che non imponeva regole meschine, poiché la sua suprema aspirazione era quella di fare dell'istituto una fucina di energie atte a innalzare il livello della vita spagnola. Accanto allo studio dell'ingegneria agraria, Luis si dedica allo sport, all'arte, alle donne e ai superalcolici. Nel 1919, però, arriva il primo incontro fondamentale. In quell'anno, in primavera, arriva alla residenza uno studente ventunenne, andaluso e borghese. Studia legge per imposizione paterna. Ama scrivere. Il suo nome è Federico García Lorca. Per 3 anni, Lorca e Buñuel sono inseparabili e guidano la nuova generazione di intellettuali spagnoli. Ingegneria agraria è un ricordo. Luis cambia facoltà, passa prima ad entomologia, lo studio degli insetti. Quel che più mi piaceva e continua a piacermi, e ancora adesso mi sembra un mistero straordinario, sono gli insetti. Posso guardare una mosca per non so quanto tempo. E cos'è uno scarabeo? Starei ore a guardarlo. Non lo capisco, ma per me è il mistero della vita, l'incomprensibile, ciò che sta oltre di noi. E poi passa alla facoltà di lettere. Un giorno sentii parlare di paesi stranieri che richiedevano lettori di spagnolo. Avevo una tale voglia di andarmene che feci subito il mio nome. Ma non accettavano studenti di scienze naturali. Per poter essere scelti bisognava studiare lettere o filosofia. Con Lorca segue l'opera, i fermenti legati alla pittura sperimentale. Scrive opere teatrali d'avanguardia, rappresentate poi alla residenza. Io e Lorca abbiamo messo in scena svariate volte in quegli anni un'opera chiamata Il Tenorio, alla residenza. Era un allestimento un po' stravagante, un po' particolare. Io interpretavo Don Giovanni. Avevo scarpe da football e una macchina per scrivere costantemente sotto braccio, per sbrigare la corrispondenza amorosa. In quegli anni Lorca, in realtà, era riuscito a portare in scena altri spettacoli, in altri teatri di Madrid, fuori dalla residenza. Grande varietà e sperimentazione. Ma perché l'esperienza intellettuale di Buñuel diventi uno dei punti di riferimento della cultura europea del Novecento, è necessario un secondo incontro, una collisione di personalità che regalerà al mondo intero l'essenza del surrealismo. Io e Lorca eravamo sempre in giro con Pepimbello, un altro studente della residenza. Formavamo un terzetto inseparabile, un terzetto destinato a diventare un quartetto. Nel settembre del 1922 arriva un nuovo studente della Catalogna. Introverso, stravagante, solitario, è un pittore. Non stringe molte amicizie alla residenza. Si lega solo a 2 studenti e sono proprio Buñuel e Lorca. Il suo nome è Salvador Dalí Domènech. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta le origini del surrealismo, una delle avanguardie artistiche più popolari d'Europa. Lo fa ripercorrendo le conseguenze dell'incrocio casuale di 2 straordinari artisti, 2 personalità enormi, Luis Buñuel e Salvador Dalí. Il primo diventerà uno dei più importanti registi spagnoli di tutti i tempi. Dalí, il pittore surrealista e provocatorio per definizione. Si incontrano presso la Residencia des Estudiantes di Madrid e, unendo la loro sensibilità artistica, creano una tendenza. Vediamo come arriva alla Residencia, il luogo mitico dove negli anni 20 si forma una generazione di giovani intellettuali spagnoli, Salvador Dalí. Salvador nasce nel 1904 a Figueras, cittadina catalana a 25 chilometri dal confine francese. La sua è una famiglia di medio-alta borghesia. Il padre è un notaio, ateo e repubblicano, un despota agli occhi del figlio e un tiranno con la madre arrendevole e schiva. Insomma, una vecchia famiglia patriarcale della borghesia spagnola. La sua infanzia è segnata da un fatto tragico, avvenuto 10 mesi prima della sua nascita, quando muore di meningite il primo figlio della famiglia Dalí. La morte di mio fratello aveva fatto cadere i miei in una profonda disperazione, e quindi loro trovarono conforto in me. Io e mio fratello ci assomigliavamo come due gocce d'acqua. Come me aveva l'inequivocabile morfologia del genio. Il secondo figlio, dunque, diventa per i genitori un sostituto del primo. In Salvador rivive il fratello mai conosciuto. Questo doppio, in qualche modo, influisce sulla personalità del pittore catalano, sulla sua poetica schizofrenica, sul suo io diviso. All'età di 5 anni mi avevano portato sulla tomba di mio fratello. I miei genitori mi dissero che ero la sua reincarnazione. Probabilmente lui era una prima versione di me. Dalí ha anche una sorella, Ana Maria, e una passione fortissima fin da giovane per il calcio e per l'arte. Gli studi in campo artistico iniziano nel 1919. I genitori lo assecondano in questa prima fase di studio, tanto che il padre, che romperà con lui qualche anno dopo, organizza una mostra dei suoi primi disegni presso la residenza di famiglia già nel 1920. Nel 1921, un altro fatto che incide in maniera determinante sulla personalità del pittore, la morte della madre, cui era legatissimo. È stata la disgrazia più grande che mi sia mai capitata nella vita. La adoravo. Non potevo rassegnarmi alla perdita di una persona su cui contavo per rendere invisibili le inevitabili imperfezioni della mia anima. È così che nel 1922 Dalí si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Madrid e prende dimora alla Residencia de Estudiantes. La Spagna degli anni 20. Una terra di contrasti e di contraddizioni. In superficie la nazione iberica rimane la cattolicissima Spagna. Nel profondo, la restaurazione borbonica e l'ascesa delle classi borghesi impongono l'auspicio della nascita di una nuova classe dirigente, di una nuova cultura. Intanto, l'industrializzazione, il progresso. Le città sembrano svegliarsi, i giovani e gli artisti cercano nuove strade, nuove vie. Nessuno si immagina il letargo franchista in cui piomberà la nazione di lì a qualche anno. Immaginatevi la scena. In questa residenza studentesca, in pieno fermento culturale, piena di giovani che in qualche modo vogliono fare la Spagna, che sono soliti discutere nei localini più intimi e riservati dei barrio madrileni, arriva questo dandy elegantissimo, ben vestito, capelli curati, basette lunghe, vestiti che sembrano presi dal ritratto di Dorian Gray. Riuscite a visualizzarla? Where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little lies. You're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for. È proprio alla Residencia che Dalí incontra Luis Buñuel e García Lorca, oltre alle suggestioni cubiste e a un clima culturale fertile e stimolante. Il pittore catalano assume da subito atteggiamenti stravaganti, irriverenti, sopra le righe. Ama far parlare di sé. Il confronto con Buñuel, che il destino ha messo sulla sua strada, è incredibilmente arricchente per entrambi. Sono gli anni in cui anche in Spagna giungono le opere di Sigmund Freud. I sogni, l'inconscio, le prime sperimentazioni surrealiste, che in letteratura e pittura arrivano dalla Francia. I tre amici si immergono in questo clima, si influenzano reciprocamente, tra una visita al Prado e un giro per la meravigliosa città di Toledo. Fino al 1925. In quell'anno Buñuel finalmente va a Parigi. In Francia, Buñuel si lega ad alcuni esponenti della comunità intellettuale spagnola, ma soprattutto allarga i suoi orizzonti grazie alla frequentazione del gruppo surrealista che gravita intorno al poeta André Breton. A Parigi, inoltre, in quegli anni, Buñuel scopre il cinema. Da Chaplin a Keaton, da Eisenstein a Fantomas, la settima arte, ancora in fasce, diventa lo strumento prediletto da Buñuel per esprimere se stesso. Queste maturate consapevolezze artistiche lo allontanano da García Lorca, che non riesce a condividerle, ma non da Dalí. Nel 1926 per Salvador è il momento degli esami di fine anno, determinanti per la permanenza alla residenza. Salvador però ha dimostrato la sua incredibile maestria con straordinari quadri come Il cesto di pane o proprio il ritratto dell'amico Buñuel. Manca ancora una direzione precisa, ma cresce la sua bravura e con essa il narcisismo. Così, prima degli esami, fa sapere alla direzione dell'Accademia che ritiene che nessuno in tutta la scuola sia degno di fargli l'esame. Arriva immediata l'espulsione. Non sarà il primo allontanamento forzato per questo artista eccentrico e inclassificabile, ma è proprio grazie a questa espulsione che Dalí decide di raggiungere l'amico Luis Buñuel a Parigi, a contatto con i fermenti surrealisti di Breton e compagni. A Destini Incrociati stiamo per tornare al nostro evento iniziale, la controversa proiezione pubblica di L'Âge d'Or. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati parliamo d'arte, di surrealismo. Siamo nella seconda metà degli anni 20, a Parigi. Luis Buñuel e Salvador Dalí si sono ritrovati nella capitale francese dopo essersi conosciuti per caso alla Residencia des Estudiantes di Madrid e avere stretto amicizia. Ora a Parigi lavorano, discutono, scrivono gomito a gomito con gli artisti dell'avanguardia surrealista. Mentre la cultura occidentale assimila le rivoluzionarie teorie freudiane con le quali l'uomo scopre improvvisamente di avere dentro di sé una parte irrazionale e incontrollabile, i surrealisti lavorano proprio sulla dimensione onirica, sul ritorno del rimosso, sulla riemersione dell'inconscio. Negli affascinanti locali parigini, tra le vie ricche di storia, tra Montmartre e il quartiere latino, Buñuel e Dalí trovano l'atmosfera giusta per gettare i presupposti per il grande salto del surrealismo verso il grande pubblico, attraverso il cinema. Attraverso un finanziamento che la madre di Buñuel, nel frattempo rimasta vedova, mette loro a disposizione. I due applicano alla lettera i principi della libera associazione di idee di Breton, svincolano il proprio inconscio. Nasce Un chien andalou, il film d'esordio di Buñuel, scritto con l'amico. Fin dal titolo, un esplicito attacco al vecchio amico Lorca, troppo legato alla cultura tradizionale. È il 1929. La famosa sequenza iniziale del film, con quell'inquadratura stretta su una lametta a tagliare un occhio, e la sequenza delle formiche sulla mano, anch'essa passata alla storia, hanno una forza provocatoria senza precedenti. A Natale del 1928, che trascorsi con Dalí, gli suggerì di fare un film insieme. Dalí mi disse: «Questa notte ho sognato di avere la mano piena di formiche». E io: «Questa notte ho sognato di tagliare un occhio a qualcuno». In 6 giorni scrivemmo il copione. Eravamo a tal punto in simbiosi che non c'era nessuna discussione. Un chien andalou è un film importante per la cultura europea. Era la summa di un fermento culturale espresso per immagini. Possiede ancora oggi un'indubbia forza espressiva. Un chien andalou è un cortometraggio. Dura poco più di un quarto d'ora, ma segna la storia del cinema. È il più efficace manifesto di un'avanguardia tradotto su pellicola. Il gruppo dei surrealisti lo adotta in pieno. Dalí scrive la sceneggiatura del film insieme all'amico e contribuisce alla composizione visiva di alcune inquadrature. Sempre nel 1929, Dalí incontra la sua musa, fonte di ispirazione e futura moglie, Gala, un'espatriata russa di 11 anni più vecchia di lui, che in quel momento è sposata con il poeta surrealista Paul Éluard. I surrealisti apprezzano molto quello che Dalí definisce il suo metodo paranoico-critico per esplorare il subconscio e raggiungere un maggior livello di creatività, metodo che porta alla nascita di capolavori come La persistenza della memoria. Qualcosa però tra i due amici inizia a rompersi. Il movimento surrealista inizia a definirsi anche sul piano politico. L'adesione di Dalí, però, è puramente estetica. A livello politico non prende posizione. Buñuel, invece, vi aderisce in pieno. Secondo me, il surrealismo è prima di tutto una questione morale. È un rifiuto della società, di quei vincoli, di quelle barriere che impediscono alle vere e autentiche pulsioni dell'uomo di manifestarsi. Non può essere apolitico. Siamo tornati al nostro evento di partenza, la proiezione pubblica di L'Âge d'Or, il secondo film firmato da Buñuel e Dalí. Quelle che sentite in sottofondo sono le urla di gruppi fascisti intervenuti in sala, allo Studio 28, il quinto giorno di proiezione, per bloccarne la visione. Beh, la mia idea, scrivendo con Buñuel la sceneggiatura dell'Âge d'Or, è stata di presentare la linea di condotta di un essere che persegue l'amore attraverso gli ignobili ideali umanitari, patriottici ed altri miserabili meccanismi della realtà. Non avevo un intento politico. Così il film secondo Dalí. L'Âge d'Or si conclude con una citazione da un romanzo del Marchese de Sade. Dalla dimora delle 120 giornate di Sodoma, però, esce Gesù Cristo. Una provocazione devastante. I fascisti assaltano la proiezione. Pochi giorni dopo interviene il prefetto parigino e fa sequestrare il film. Pensate che L'Âge d'Or rimarrà proibito in Francia fino agli anni 70. È un evento determinante per il surrealismo, per Buñuel, per Dalí. Un evento che segna, in maniera diversa, il punto di partenza della carriera di entrambi, il punto di rottura del loro rapporto, l'inizio dell'allontanamento di Dalí dal gruppo surrealista. Buñuel, dopo la proiezione di L'Âge d'Or, che non rinnegherà mai fino alla morte, torna in Spagna per sfuggire al pericolo di possibili assalti di gruppi di destra. Qui gira lo sconvolgente documentario Las Hurdes del 1934, ma il suo paese viene sconvolto dalla guerra civile. L'avvento del franchismo fa fuggire Buñuel dalla Spagna. Non vi farà ritorno fino al 1970. Nel 1939 arriva a New York e trova lavoro presso il MoMA. Qui la sua strada si incrocia ancora con quella di Salvador Dalí. Nel 1934 Dalí viene espulso dal gruppo surrealista perché si rifiuta di condannare esplicitamente il fascismo, convinto che il surrealismo possa sopravvivere anche in un contesto apolitico. All'espulsione ordinata da Breton, Dalí risponde così: «Non possono espellermi. Il surrealismo sono io». Il pittore catalano si immerge progressivamente nella mondanità, nel lusso. Coltiva la propria immagine secondo una logica prettamente divistica. Gira il mondo, predilige l'America, stringe amicizia con Francisco Franco. Breton ironizza su di lui anagrammando il suo nome in Avida Dollars. Nel 1940, Dalí, nel suo libro La vita segreta, rivela alcuni dettagli controversi sul caso L'Âge d'Or. Buñuel ha ripulito L'Âge d'Or dai suoi passaggi più frenetici, in modo da adattarlo all'ideologia marxista. Attacca il cattolicesimo in modo elementare, senza nessuna poesia. Il nostro rapporto si è allentato perché Buñuel, di fatto, è un comunista. Il MoMA, indispettito dalla dichiarazione di Dalí, interrompe la collaborazione con Buñuel. È l'ultimo beffardo scherzo che il pittore catalano gioca all'ex amico, in linea con il suo spirito irriverente e iconoclasta. I due non si rivedranno mai più, benché destinati a lasciare un segno indelebile nella cultura contemporanea, benché l'inizio di questo solco sia inevitabilmente legato al loro destino incrociato, a quei giorni trascorsi insieme e dai quali hanno preso il via due splendide carriere artistiche. But just tell me you love me and you are only mine and our love will go on till the end of time. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.